Salve a tutti, bentornati all'ennesimo appuntamento con 8 Hertz, una delle prime trasmissioni di Radio Wombat. A questo giro non ci saranno live anonimi e liberi di improvvisazione digitale, non ci saranno approfondimenti su un po' di musiche a livello storico dagli anni 50, agli anni 70 con Filippo Panichi, come abbiamo fatto, ma ci sarà una delle classiche puntate di 8 Hertz dove parlo di roba che mi viene in mente e ha un collegamento a suo modo, perché colpisce la psiche e proprio quelle frequenze che ti dovrebbero fare entrare in uno stato un po' di psichedelia, che stasera ce ne sarà abbastanza, ma non solo. L'ho un po' chiamata come liturgia lisergica, perché sì, ci sono cose che hanno a che fare con dei cerimoniali, cose vicine al paganesimo e alla religione in generale, cose legate quindi anche al folklore, all'etnicità in alcuni casi, e ovviamente al rock and roll, perché secondo me un pizzico di doom, appunto rock and roll in quel senso, non vi aspettate da me troppe robe allegrissime, allegre, ci sta sempre, insomma, se vuoi viaggiare con la mente, poi se ti fai i brutti viaggi sono affari tuoi. Comunque, la puntata è partita ascoltando un disco di una artista che è stato recensito molto bene, è uscito nel 2018, effettivamente ascoltandolo l'ho trovato molto bello, e lei si chiama Anna von Hauswolf, che è una 31enne cantante e musicista, suona pianoforte e organo, ed è sull'organo che dirò due parole, perché allora l'album si chiama Dead Magic, già partiamo benissimo. E quest'album è stato registrato nella Göteborg Ogrity New Church, perché lì, che sarebbe un po' una seconda casa per lei, visto che ci va sempre a suonare aprendo le porte con delle chiavi che sembrano uscite da Zelda o dai film fantasy, lì dentro in questa chiesa in Svezia, perché lei è svedese, e sta lì, in questa chiesa c'è una replica di un organo, un bestione di 400 anni fa, quindi circa del 1600, di un organo esagerato, grosso come quasi un monolocale, ha ovviamente pipes, come si dice in italiano, come diceva mio amico, è stato due giorni in Inghilterra, a canne, ecco. Ovviamente è una replica, però è stata fatta in maniera certosina da chi l'ha ricostruito, e tra l'altro hanno dovuto inserire dentro, questa è bellissima questa cosa, dello stagno, del piombo e dell'arsenico, perché serviva comunque, queste tre sostanze servivano a dare anche un certo tipo di sonorità o una sorta di olio per le canne, e quindi sì, dentro c'è del veleno, e forse anche suonandolo un po' ti avveleni. Questa ragazza, appunto, molto giovane, ha fatto questo disco. È molto bello, è stato difficile anche scegliere un brano, perché sono un po' differenti tra loro, ma non nel senso che in un pezzo fa salsa e nell'altro fa rock, ma perché, per capire i vari aspetti delle sue canzoni, dovremmo metterlo veramente tutto. Ci sono delle composizioni, ora mi sembra siano 6 pezzi, quindi non sono tanti, però tra l'altro hanno una costruzione strana, divisa molto quasi per capitoli, hanno una narrazione ogni pezzo. Comunque sono pezzi solamente con l'organo, altri suoni, di tastiera e voce, altri con un'impostazione più rock. Insomma, io metto il pezzo di apertura del disco che si chiama The Truth, The Glow, The Fall. Non ho messo il pezzo del singolo perché è bellissimo, ma secondo me, se volete darvi un'idea di cos'è il disco, ascoltate la prima traccia, giustamente è stata inserita come prima. E tra l'altro una cosa particolare è che questo disco è stato prodotto a livello artistico da Randall Dunn, che ve ne parlerò nel corso della puntata. Comunque è un produttore che sta facendo meraviglie, si propone sempre a gruppi o cantautori o cantatrici molto interessante. Intanto lo metto, buon ascolto. Anna, questo è il suono del primo disco di Anna von Haus, scusa, della prima traccia dell'ultimo disco di Anna von Hauswolf. Buon ascolto, parte pianissimo, poi si espande, eccola. A dopo. Thank you. E questi che state sentendo sul finale sono le 4.000 canne che ha questo organo a Göteborg, in questa nuova chiesa. E boh, sono una fonte che ho preso dal The Guardian, un articolo online che è bello, spero non dica fandonie, perché insomma 4.000 mi sembrano esagerate, ma così pare. Io di organi ne so poco o niente. L'avevano paragonata a questo disco, in questo disco a qualcuno l'ha paragonata a qualcosa che ha a che fare con gli Swans, di un disco particolare, si chiama The Seeds, che è un disco bellissimo anche quello. Sì, effettivamente magari ci può essere qualcosa. Io ci ho trovato altre influenze più che gli Swans, ma ci saranno sicuramente anche quelle. E allora, per omaggiare gli Swans, in realtà vi propongo un pezzo degli The Angels of Light, che è un gruppo che tirò su Michael Gira quando dichiarò che gli Swans erano morti, e appunto fece un disco live doppio che si chiama Swans Are Dead, e dentro era pieno di scritte Swans Are Dead e basta. E invece e formò questi Angel of Light, che è sempre un suo modo di suonare abbastanza ossessivo, ma in una chiave più folk e acustica. E questo brano è tratto dall'ultimo disco che fece con gli Angels of Light, perché poi riformò gli Swans. Il disco si chiama We Are Him. Il brano è Not Here, Not Now. Uscirono tutti per la Young God Records, che è la sua, per cui buon ascolto. Qui c'è tanta roba, ci sono tanti strumentisti. I stand on this stone at the edge of the sea, and I raise up these hands. Will you breathe into me? Speak with my tongue. Will you sing down through us? Will your hand stir the sea? Will you dream that we this earth. or feel the light, or touch your hand, or take our sight to sing inside your burning lung, the songs that clothe your naked sun, to feel the sea, or drink the air, or breathe the world that lies nowhere, to feel the sun, or taste the light, or touch your hand, or still your sight. This is not here, this is not now, this is not here, this is not now, this is not here, this is not now, this is not here, this is not now, this is not here, this is not now, this is not here, this is not now, this is not here, this is not now, this is not here, this is not now, this is not here, this is not now, this is not here, this is not now, this is not here, this is not now, this is not here, this is not now, this is not here, this is not now, this is not here, this is not now, this is not here, this is not now, this is not here, this is not now. Eccoci su 8 Hertz, ospitato come al solito da Radio Wombat. E vi dicevo di Randall Dunn, che era il produttore del disco di Anna Van Auswolf. E così vi faccio ascoltare il gruppo proprio suo, dove ci suona, oltre che essere prodotto ovviamente da lui, che si chiamano Master Musicians of Bookcake. E il nome è un po' uno scherzo su un gruppo marocchino che si chiama Master Musician of Jajouka, sì, più addizionato col finale, che è una pratica sessuale abbastanza estrema. Comunque, loro sono di Seattle e fanno psichedelia un po' oscura, rituale e appunto anche un po' liturgica, miscelando le musiche di varie tradizioni, come appunto nei Totem, che è uscita una trilogia, e proprio questo brano è tratto dal primo Totem, Totem One. Spesso hanno a che fare anche con la musica indiana o insomma un po' di tutti i tipi, diciamo. Randall Dunn, tra l'altro, è colui che ha prodotto anche i Sun, i Boris, gli Earth e i Sun City Girls, che sono un gruppo degli anni 80, quindi abbastanza storici. E proprio in questo brano c'è la voce del cantante dei Sun City Girls, ovvero Alan Bishop, che comunque poi ha cantato anche in altri come ospite in altri gruppi, ma sempre gruppi pazzi. E quindi intanto vi metto questo bellissimo pezzo tratto da Totem One. Il pezzo si chiama People of the Drifting Houses, del 2009. Thank you. Questi erano i Master Musicians of Book Cake, un pezzo pieno di riferimenti a contesti musicali differenti e anche un po' mentali, come essere maligni ma con ottimismo e positività, come in questo caso una sorta di Black Shanti psichedelicone e basta. E di solito mi viene sempre da mettere i Goth dopo i Master Musician of Book Cake, perché ci stanno sempre bene. I Goth sono bellissimi, secondo me. Peccato non averli mai visti dal vivo. Ci sono stato quasi accanto a un concertone, ma purtroppo per fortuna, insomma, ho visto un altro gruppo mentre suonavo a loro, per cui non li ho visti, ma ho visto dei live sul tubo e sono ganzissimi. Sono queste due cantanti che cantano uguali con le maschere africane, dei percussionisti con i passamontagna, colori e anche qui una buona dose di oscurità, ecco. E proprio questo brano è un brano live. Loro sono svedesi, è una sorta di collettivo un po' fricchettonico, ma più che fricchettone mi piacerebbe più chiamarli hippie, che mi stanno più simpatici. E il pezzo è Talk to God, è il pezzo di apertura di questo disco live che si chiama Fuzzed in Europe del 2017. Loro combinano molto la psichedelia con rock acido un po' degli anni 70 con la musica africana, quindi c'è anche qualcosa di funkadelico dentro. E nel 2016 fecero questo tour in Europa per pubblicizzare il lavoro che fecero in studio, che si chiama Requiem, ecco. E questo è un po' una sorta di compendio di quello che hanno fatto in tour. E proprio questa deve essere stata l'apertura dei loro concerti in quell'anno. Quindi ascoltatevelo, 8 Hertz, Radio Wombat, ancora una roba a cavallo tra la positività e l'oscurantismo. Che parolone. Oscurantismo forse no, ecco, diciamo. Sempre lì, non ci si scosta. Anche se sono molto happy nel primo acchito. Bye. entrano i got tagliati, perché sai, le tracce dei dischi sono un po' così, a bomba perché ci sta benissimo, me lo sento. I Cathedral, Cosmic Funeral, Viva il Doom, tratto da Ethereal Mirror del 1993, il primo disco in cui la voce di Lee Dorian, che è anche il fondatore dell'etichetta Rise Above, che è una super etichetta appunto di Doom derivati. Il primo disco in cui lui non cantava growl, e sarebbe semplicemente il secondo disco. Un pezzo storico. Send it to the gallows. yet. Let's groove, starting motherfucker. Demons inside me, we're begging you as I miss them. It takes you as Satan's highway. Basta, sprofondiamo veramente in qualcosa che ha a che fare con il petrolio, basta ottimismo, anche se questo era un brano doom classico, anche se ha un finale molto power. E così niente, ho detto niente, odio dire niente. Chelsea Wolf con Grey Days, tratto da Abyss, il penultimo disco del 2015. Vista dal vivo e come fonico e tecnico aveva Randall Dunn. We'll be right back. così, tra a fare da ponte tra questo pezzo e il prossimo, vi ricordo che tra le serate che ci sono questo fine settimana, ricordo quella che si terrà al Next Emerson a Firenze, quasi a Sesto, che sarebbe sabato 7 aprile, così almeno se uno sente la replica è passata, sa che è un evento che c'è stato sabato 7 aprile, si chiama Night Movers Laboratories. È una serata in cui dalle 22 ci sono le voci del collettivo Ruggine, rivista di lettura fantastica autoprodotta, che leggeranno alcuni pezzi tratti appunto da Ruggine, e poi dopo la serata prosegue con Cronaca e Preghiera e Bad Girl, che ormai lo conosciamo bene, e poi DJ set Retrowave, Italo Disco, Minimal Synth, Nu Goth, Post Funk a cura di Lunkin e Session, spero di averli letti bene. Quindi insomma è una serata di quelle che a Firenze dicono oh, c'è serata dark, quindi questa è una di quelle, per cui chi è interessato può andarci. Tra l'altro forse ci sarebbe anche un dress code consigliato che è attinente a roba che ha a che fare con gli esperimenti scientifici, i laboratori, la scienza, e la scienza non muore mai. E niente, quindi ho detto niente un'altra volta, sono finito. Fever Ray, che è un'altra svedese, questo è il terzo gruppo progetto svedese della serata, che sarebbe una dei due dei The Knife che facevano synth pop appunto, elettro, ma in un modo molto particolare. Lei è Karin Dreyer. Il disco è tratto, il pezzo è tratto dal primo disco, che è self-titled, del 2009. Tra l'altro lo comprai quando uscì, e poi mi è rivenuto in mente perché ho visto una serie che si chiama Dark, di ritorna tutto con la serata anche di sabato. In Dark c'è un'ottima colonna sonora, oltre che essere una buona serie un po' tra il misterioso e il visionario, una serie tedesca se non sbaglio, e c'è anche questo pezzo che ora io vado a mettere, ho detto bah, proprio bello, insieme agli altri del disco. Alcuni sono usciti anche con un video, credo anche questi video sono quelli che ho visto, mi ricordo sono molto belli. Comunque, Fever Ray, Keep the Street Empty for Me. Disappear for forever, I'll be. Un po' negli stessi giorni in cui ho conosciuto Anna von Haswolf, ho conosciuto anche un'altra cantante o cantautrice o musicista che si chiama Lingua Ignota e che mi ha colpito per questo dualismo che ha tra il saper cantare e suonare la musica classica miscelato a tutta un'altra un altro mondo che sarebbe quello della musica sperimentale del power electronic. Lei si chiama Christine Heiter, è di Providence americana e non ha avuto proprio una buonissima crescita, nel senso che sono successi fatti spiacevoli a quanto pare. Ha fatto due dischi, il primo si chiama, è lungo, si chiama Let the Evil of His Own Lips Cover Him, è uscito proprio per San Valentino del 2017, il 100% dei proventi delle vendite è stato dato benefit al National Network to End Domestic Violence, perché a quanto pare su di lei sono stati fatti molti abusi domestici, per cui è un argomento che si porta a cuore da anni, le sue tesi di studio erano la prima sono un malloppo di 10.000 pagine con tutto ciò che può rientrare come materiale a testimoniare la misoginia e anche le esperienze proprie che sono successe. Un'altra tesi che si chiama Architect and Vapor sull'anoressia, che c'è stata a seguito di questi traumi per tanti anni. E quindi un po' così, una vita un po' dura a quanto pare. Uno dei suoi motti si chiama Repay Evil with Evil, cioè ripaga il male con il male, che è un po' quello che... una frase che rispecchia un po' la musica che fa, insomma. Secondo me è molto molto brava proprio a miscelare questo canto classico, per cui lei ha proprio studiato su questa strada, diciamo, e anche il noise, il rumore, considerando anche che appunto il noise estremo e alcune cose sperimentali sono fatte do it yourself, ecco, i lavori suoi sono non sono usciti per etichette, ma sono appunto fatti con questo concetto. Anche questo è abbastanza forte come proposta. Insomma, vi faccio sentire questo pezzo che si chiama For I Am The Light, e tra parentesi And Mine Is The Only Way Now, tratto dall'ultimissimo lavoro, sempre del 2017, che si chiama All Bitches Must Die. Questa era Lingua Ignota, ovvero Christine Heiter. Il pezzo era For I Am The Light. Lingua Ignota, tra l'altro, è un termine della visionaria Hildegard von Bingen, proprio a significare il suo stile come qualcosa di indefinito. Appunto, se una cosa spazia da un certo tipo di lavoro fatto su melodie classiche e il power noise, tutto quello che c'è in mezzo, come potrebbe essere il blues, diventa una cosa indefinita. E insomma, mi piace il fatto che sia poco riconducibile a ogni forma musicale. Tra l'altro, lei sta facendo o farà a breve un tour con i The Body. The Body sono questo duo americano, anche loro pesantissimi. Li vidi una volta a Bologna e non, praticamente non si capiva nulla, erano volumi così alti che non si sentiva nulla. Il batterista, che non è il batterista ufficiale perché non prende aerei, quindi appunto è un grosso problema suonare dal vivo, era sostituito da uno molto più giovane che sembrava si divertisse, sembrava uscito dai Guns N' Roses, e non si sentiva proprio nulla. Insomma, non bisogna mai sostituire batteristi, secondo me. Quindi sono insieme a suonare The Body insieme a Lingua Ignota. Deve essere un concerto parecchio tosto, come gruppo d'apertura e gruppo a seguito. Mi pare un'idea veramente estrema. E io vi lascio appunto con un pezzo dei The Body che si chiama Alone All The Way. È tratto da, aspetta, lo ricerco che non mi ricorda, da un disco del 2014 che si chiama I Shall Die Here. Il disco è particolare perché è suonato insieme a Axan Clock, che fa musica elettronica di un certo spessore, secondo me. E il pezzo parte proprio con un audio preso da una, tipo, più che una seduta, perché è quella definitiva, si sente una persona che viene guidata verso la morte attraverso il processo dell'eutanasia. Quindi è abbastanza pesante. Il disco comunque è magnifico, bello tosto anche questo. Io vi lascio, ci sentiamo la settimana prossima per qualche altra follia e sperimentazione. Concludiamo con The Body, Alone All The Way. Buon ascolto, a presto, grazie. Either actually go through with it, or I say, you know what, I'm too scared right now, I don't want to do it. If I go through with it, I die, as I must at some point. If I don't go through with it, my choice is essentially to suffer and to inflict suffering on my family and then die. Possibly in a way that is considerably more stressful and painful than this way. I've got death. I've got suffering and death. Well, gee, you know, this becomes a lot of sense to me. Who will look at this and say, no, suicide is wrong. God is we'll be right back. die.